in silenzio come non hai fatto mai. Ascolta il vento, si innalza alto sopra i nevai, ritarda il tempo, un battito e poi, quando l'acqua scende trasforma la corrente, ti scriverò la mia canzone, ti porterò parole nuove scritte con le gocce giù sulla mia faccia. Intanto scivola, scivola come una pioggia libera, libera sulla tua pelle. Musica è musica che ci sorprende, l'ultima nuvola stasera esco e non ritorno più, e non ritorno più. Cammina, cammina, il paradiso c'è lassù. Parlano i focolai, disteso al vento come non hai fatto mai. Ritorna dentro l'uomo se poi cerca la passione e togli la ragione. Ti canterò nuove emozioni, ti sembrerò ghiacciaio al sole, le ho scritte con le scese sul mio corpo, e sento che scivola, scivola come una pioggia libera, libera sulla tua pelle. Musica è musica che ci sorprende, l'ultima nuvola stasera esco e non